Buongiorno a tutte e tutti per questa prima puntata dell'Assalto della Chimera, ibridazioni e sguardi femministi. Oggi vi proponiamo delle letture a partire da Autobiografia di una rivoluzionaria di Angela Davis. Perché Angela Davis? Abbiamo colto l'occasione a partire da due incontri che terrà all'Università di Bologna nei prossimi giorni, il 15 e il 16 marzo. Il primo incontro tratterà la questione della ricerca accademica e delle sue possibilità di costruirsi come ricerca politica radicale, che vada davvero a impattare sulla società. La seconda, invece, è incentrata sul suprematismo e sul privilegio bianchi, questione più che mai attuale se solo ricordiamo i recenti omicidi di afroamericani per mano delle forze di polizia negli Stati Uniti, tuttora impunite, e, per restare in territori più vicini a noi, all'esplosione di xenofobia di fronte alle migrazioni che percorrono l'Europa. Angela Davis è una donna afroamericana, femminista, lesbica, marxista, vegana, un ritratto completo di rivoluzionaria a 360 gradi. Una donna che già nel 1969 si pronuncia in favore dei diritti di gay e lesbiche, quando ancora era un argomento tabù. Una donna che non si tira indietro di fronte al sessismo esplicito del movimento e che diviene la terza donna a entrare nella lista dei ricercati più pericolosi d'America. Quando accadde e come? Angela era già salita agli onori e agli oneri della cronaca per essersi dichiarata apertamente comunista, rischiando così il posto di lavoro in università, e per la sua affiliazione alle Black Panthers. Nell'agosto del 1970 viene accusata di complicità nel sequestro e nell'omicidio del giudice Haley, che presiedeva il processo contro i fratelli di Soledad, militanti delle Black Panthers che avevano ucciso una guardia in carcere. Durante il processo il giovanissimo Jonathan Jackson, fratello di una delle figure di spicco delle Pantere, George Jackson, irrompe in aula, sequestra giudice, PM e tre giurate e tenta la fuga con i due imputati. La polizia mette fine al tentativo di evasione con una raffica di colpi. Jackson, i due militanti delle Black Panthers e il giudice muoiono. Angela Davis viene coinvolta perché le armi utilizzate sono intestate a lei e per la legge dello Stato della California questo basta per farla complice del reato. E agosto scatta la fuga, due mesi di latitanza in cui il volto di Angela diventa un emblema della lotta degli afroamericani e della repressione per mano dello Stato. Manifesti con il suo volto vengono affissi ovunque, accompagnati dalla scritta «Angela, qui sei la benvenuta». Campeggiano in locali e case private, ma a ottobre l'FBI rintraccia Angela a New York e la arresta. Entra così in un regime di isolamento nel complesso carcerario industriale. Viene poi assolta, ma non si tira certo indietro dalle scene. Tra le sue attività più recenti ricordiamo che nel 1998 è fra i creatori di Critical Resistance, gruppo anticarcerario che si batte contro quella che lei ha definito non un sistema giudiziario ma una nuova forma di schiavitù. E partecipa anche alla nascita di African American Agenda 2000, una rete di femministe nere. Per questo e molto altro abbiamo scelto di farvi ascoltare le sue parole, prima fra le donne di cui sentirete la voce qui nella nostra trasmissione, e a cui dedicheremo la proiezione di un documentario il 1 aprile, nella sede della radio in piazza Santa Brigida, Genova. I brani che andremo a leggere sono tratti dalla prima parte dell'autobiografia, che si concentra in modo particolare sul periodo della latitanza e della carcerazione. Angela ci racconta come affronta questa esperienza, come si relaziona con le altre carcerate e con le secondine, come vive l'isolamento e la quotidianità. Angela Davis viene scoperta e arrestata nell'agosto 1970 e viene quindi portata in carcere. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. L'interno del carcere era in stridente contrasto con l'edificio che avevo appena lasciato. La sede centrale dell'FBI era moderna, di una pulizia settica, tutta a pannelli di plastica illuminati al neon. La casa di detenzione femminile era vecchia, ammuffita, tetra e buia. Il pavimento della sala d'accettazione era di nudo cemento, sporco e segnato dalle impronte di migliaia di prigioniere, poliziotti e guardiane. C'era un'unica scrivania, dove sembrava svolgersi tutto il lavoro burocratico, e file di lunghe panche che assomigliavano a vecchi banchi di una povera chiesa. Quando il turno di guardia cambiò, ero ancora in attesa di quella stanza sporca. Venne a sorvegliarmi una nuova guardiana. Era nera, era giovane, più giovane di me. Aveva una pettinatura afro e avvicinandosi non mostrò traccia della battagliera arroganza che avevo imparato ad associare alle guardie carcerarie. Fu un'esperienza disarmante e tuttavia non mi sconcertò tanto il fatto che era nera. Avevo già conosciuto guardie carcerarie nere nelle prigioni di San Diego e di Los Angeles, quanto il suo modo di fare, privo di aggressività e chiaramente solidale. Dapprima restò in silenzio, ma dopo pochi minuti a voce bassa mi disse: «Un sacco di impiegate qui, quelle nere, hanno fatto il tifo per lei. Abbiamo sempre sperato che riuscisse a mettersi al sicuro». Avrei voluto parlarle, ma capivo che era meglio evitare ogni conversazione meno che superficiale. Per quanto ne sapevo, potevano averle ordinato di ostentare solidarietà. Se mi facevo ingannare dalla sua simpatia, se diventavo amichevole, le avrebbero creduto più facilmente quando avesse deciso di mentire sul tenore della nostra conversazione. Era più sicuro mantenere le distanze, i rapporti formali. Stamparono l'impronta del mio indice su una tessera arancione, che, venni informata, era il documento di identificazione che ogni detenuta doveva portare sempre con sé. Poi venne sottoposta a un'altra perquisizione. Protestai energicamente. L'FBI mi aveva già perquisita una volta. L'agente incaricata di frugarmi non sembrava troppo convinta della procedura. Mentre mi svestivo nel locale delle docce, finse con discrezione di cercare qualcosa. Dalle altre donne in attesa, seppi che stavamo per subire una perquisizione interna. Ogni volta che le detenute lasciavano il carcere per comparire in tribunale e dopo che erano tornate, dovevano sottoporsi a un esame vaginale e rettale. Era l'una di notte quando finirono di registrarmi. Nella sala d'accettazione restavano solo tre donne. Una di loro, dopo avermi fissato a lungo, mi chiese se ero Angela Davis. Assentì sorridendo e allora mi disse che tornando dal tribunale aveva visto fuori una folla che manifestava per me. Gente di tutti i tipi, giovani, vecchi, neri e bianchi. Cosa dove ero straordinariamente emozionata all'idea che forse dei militanti del movimento erano lì vicino. La sorella ci disse di stare zitte un momento. Se tendevamo l'orecchio, forse potevamo sentire gli slogan. E infatti, un eco delle parole ritmate giungeva attutita fin dentro le spesse mura del carcere. Proprio davanti all'edificio, spiegò la sorella, scandivano le parole «Angela Davis libera». Purtroppo non posso descrivere le sorveglianti benevole o indicarle per nome. Se ne parlassi potrebbero perdere il posto. Erano un interessante assortimento di nonne nere, giovani e vecchie, le cui posizioni politiche andavano dalle idee progressiste all'aperta simpatia per le ali più combattive del movimento di liberazione dei neri. Tutte spiegavano che se avevano fatto domanda per questo tipo di lavoro era stato per necessità. A quanto pare, a New York, era uno dei lavori meglio pagati che non richiedesse studi superiori. In un certo senso erano anch'esse prigioniere, e alcune erano acutamente consapevoli di ricoprire una posizione ambigua. Come i loro predecessori, i sorveglianti neri di schiavi, facevano la guardia alle proprie sorelle in cambio di un tozzo di pane. E come sorveglianti di schiavi, anch'esse scoprivano che una parte della ricompensa consisteva nella loro stessa oppressione. Ad esempio, gli straordinari erano obbligatori, e per via della disciplina militare a cui erano costrette ad attenersi, se mancavano gli straordinari erano punibili per insubordinazione. Giornate lavorative di 16 ore, varie volte alla settimana, erano tutt'altro che insolite per le dipendenti che non avevano anzianità di servizio e per le anziane che non godevano le simpatie degli alti gradi della gerarchia carceraria. E tuttavia, anche se le loro condizioni personali sarebbero state motivo sufficiente per dar vita a una protesta, il ruolo positivo che potevano svolgere all'interno della prigione era limitato. Non erano certo in grado di rivoluzionare il sistema penitenziario, ma entro questi limiti riuscivano a fare un buon numero di cose importanti. Ad esempio, trasmettevano i messaggi delle detenute all'esterno quando non era possibile farli passare per i canali ordinari. Portavano dentro oggetti di contrabbando, come pettini per i capelli afro. Portavano libri alle detenute, soprattutto quelli di argomento politico, che erano banditi dalla biblioteca. Se si formavano gruppi di studio seri per iniziativa di donne che volevano saperne di più sul movimento di liberazione dei neri o su quello portoricano, a volte queste sorveglianti facevano da paravento tra loro e la direzione. Sono tutte cose che comportano rischi. Mi fecero osservare più volte che due loro colleghe erano state licenziate in tronco quando si era scoperto che avevano legami col partito delle Pantere Nere. Erano disposte a rischiare la perdita del posto, ma pensavano di essere più utili alle detenuti facendo quel poco che potevano all'interno del sistema carcerario, piuttosto che diventando martiri senza motivo. Tuttavia, alcune asserivano che se fosse scoppiata una crisi avrebbero deposto l'uniforme per unirsi all'esercito delle recluse. Una sera, mentre ero ancora in isolamento, ricevetti la visita di Kendra Alexander, che era stata chiamata a New York col marito Franklin a testimoniare davanti al gran giurì nel processo contro David Poindexter. Mi informò che stava per cominciare la dimostrazione organizzata per protestare contro la mia segregazione in isolamento. Sapevano all'incirca dove era la mia cella, perché avevo descritto minuziosamente il pezzo di Greenwich Avenue che riuscivo a vedere dalla finestra. I manifestanti dovevano radunarsi all'angolo tra la Greenwich e la decima strada ovest. Ritornai sopra di corsa. La sorvegliante che mi accompagnava era una delle più amichevoli e chiuse occhi e orecchie mentre diffondevo la notizia. Su 5 o 6 piani, le donne che risiedevano nei corridoi con le finestre che davano su Greenwich Avenue avrebbero potuto vedere e udire la manifestazione. Era una folla entusiasta. Le grida «Libertà per Angela! Libertà per tutte le sorelle!» echeggiavano nella notte. Guardando dalla finestra della cella, mi concentrai talmente sui discorsi che a tratti persi la sensazione di essere reclusa e mi parve di trovarmi giù in strada con loro. Il mio pensiero correva ad altre manifestazioni del passato. Libertà per i fratelli di Soledad, libertà per Bobby ed Erika, libertà per Huey. No alla guerra in Vietnam, basta con gli assassini della polizia nella nostra comunità. Al 10° giorno di sciopero della fame, quando ormai mi ero convinta di poter continuare indefinitamente a non mangiare, la Corte federale emise un'ingiunzione che ordinava all'amministrazione carceraria di non tenermi più in isolamento e in regime di massima sicurezza. Avevo deciso, grazie alla pressione esterna, naturalmente, che questa ingiustificata punizione mi era stata inflitta a causa delle mie idee e della mia affiliazione politica. Mancava poco che la Corte dicesse che il commissario del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, George McGrath, e la direttrice della casa di detenzione femminile, Jessie Behagan, avevano tanta paura di far sapere alle donne del carcere che cos'è il comunismo, che piuttosto preferivano violare i più elementari diritti costituzionali. L'ingiunzione fu una sorpresa. Non mi aspettavo che fosse così tempestiva e appropriata. Era una vittoria importante, perché avevamo messo bene in chiaro che l'amministrazione penitenziaria dello Stato di New York non avrebbe trovato via libera nel tentativo di perseguitare il prossimo prigioniero politico che fosse caduto nelle sue mani. Al tempo stesso, però, ritenevo la direzione del carcere capacissima di inventare qualcos'altro che non fosse l'isolamento, ma che mi rendesse la vita altrettanto difficile. Questo pensiero, quindi, smorzò il mio iniziale entusiasmo alla notizia dell'ingiunzione. In carcere si impara a non dare mai nulla per scontato. Il normale processo di soddisfazione dei bisogni è sconvolto. Non si può essere sicuri che vengano soddisfatte neppure le esigenze più elementari. Ci sono sempre intoppi che non avete previsto. Se ci si comporta in modo da indurre una sorvegliante a togliervi l'uscita di cella, perdete il diritto di acquisto allo spaccio. Se per caso siete senza sigarette, dovete farne a meno e basta. La minaccia di revocare il diritto di acquisto costituisce un potente stimolo negativo. Un altro metodo per occupare il tempo sono le funzioni religiose ogni domenica mattina. Per curiosità, scesi in cappella la prima domenica che passai fra le detenute comuni. Fui sorpresa dal numero di donne presenti, ma presto mi avvidi che molte ci andavano per motivi che non avevano nulla a che fare con un reale sentimento religioso. Era uno dei due regolari luoghi di incontro in cui le donne di un settore del carcere potevano trovarsi a parlare con le loro amiche di altri piani. Il secondo punto di incontro settimanale era il cinema. Naturalmente se il proiettore non era rotto. Neppure la curiosità che mi aveva attirato alle funzioni religiose poté indurmi ad andare a vedere uno di quei insulsi film hollywoodiani. Inutile a dirsi, era il luogo preferito in cui si davano convegno le coppie omosessuali. Per chi amava leggere, la biblioteca poteva essere la salvezza, se la stragrande maggioranza dei libri non fossero stati romanzi gialli e rosa, in genere pessima letteratura d'appendice, con il solo scopo di creare un'evasione emotiva. Una sorella mi chiese: «Che te ne è parso di mio nonno? Mi ha detto che è venuto a trovarti stamattina». Ero certa di aver capito male, ma quando ripeté la domanda, l'assicurai che si sbagliava. Non avevo idea di chi fosse suo nonno, e oltretutto quel giorno non avevo ricevuto visite. Ma l'errore era mio, ero in un paese straniero e non ne conoscevo la lingua. La donna mi spiegò che il nonno a cui si riferiva era una detenuta che era venuta a trovarmi in cella quella mattina. Poiché però non sembrava propensa a dare spiegazioni, frenai la curiosità finché non trovai qualcuno in grado di soddisfarlo. Una donna, che stava in una cella poco oltre la mia, mi fornì la affascinante descrizione di un intero sistema con il quale le donne potevano adottare come parenti le amiche del carcere. Rimasi sbalordita e sgomenta di fronte al modo in cui la stragrande maggioranza delle detenute si era metodicamente organizzata in generazioni di famiglie. Madri, mogli, padri, mariti, figli e figlie, e persino zie e zie, nonni e nonne. Il sistema familiare serviva da difesa contro la riduzione a puri numeri. Umanizzava l'ambiente e consentiva l'identificazione con gli altri in un contesto familiare. Malgrado la forte componente di evasione e di fantasia, il sistema familiare serviva a risolvere determinati problemi immediati. I doveri e le responsabilità familiari erano un modo di istituzionalizzare la solidarietà e lo scambio. Ci si aspettava che i genitori provvedessero ai figli, soprattutto ai più giovani. Come nei rapporti figli-genitori del mondo esterno, alcuni figli e figlie avevano o sviluppavano motivi di interesse. Ciò che più mi colpì in questo sistema familiare fu l'omosessualità che ne era la base. Tuttavia, benché all'interno di questo improvvisato sistema di parentela vi fosse senza dubbio una sovrabbondanza di rapporti omosessuali, esso non era chiuso alle donne etero. C'erano figli etero e madri senza marito, cioè etero. Poiché la maggioranza delle detenute sembrava inserita almeno superficialmente nella struttura familiare, il carcere doveva essere pieno di lesbiche. L'omosessualità è inevitabilmente diffusa in qualsiasi luogo di reclusione che preveda la segregazione dei sessi. Lo sapevo anche prima di venire arrestata, ma non ero preparata allo shock di vederla così totalmente compenetrata alla vita del carcere. Vi erano donne di ruolo maschile e di ruolo femminile, per le prime l'appellativo era lui. È ovvio che molte, sia maschi che femmine, avevano deciso di darsi all'omosessualità solo nel periodo di detenzione, per rendere un po' più eccitante, per dimenticare lo squallore e la degradazione che lo circondava. Quando uscivano, tornavano con i loro uomini e dimenticavano rapidamente i mariti e le mogli del carcere. Matrimoni, ricerca dei luoghi per appartarsi, manovre di una detenuta per conquistare un'altra, rivalità e gelosie, tutto questo faceva dell'omosessualità uno dei perni intorno a cui ruotava l'esistenza quotidiana nella casa di detenzione. Certo, era un modo per reagire almeno in parte alla tristezza della vita di prigione, ma obiettivamente serviva a perpetuare gli aspetti peggiori. La gay life asserviva ogni energia, impediva a molte donne di far maturare il malcontento individuale per la propria condizione, trasformandolo in malcontento politico, giacché le fantasie della vita omosessuale offrivano un'evasione facile e attraente. Per me, la ginnastica era una condizione indispensabile per resistere alla reclusione. Spesso non riuscivo ad addormentarmi se non dopo aver fatto esercizi fino allo sfinimento. Dopo pochi giorni di esercizi a corpo libero insieme, aggiungemmo qualche semplice mossa di karate. Di lì a poco, nell'ambiente ufficiale del carcere, corse voce che insegnavo karate alle donne per prepararle a uno scontro con le sorveglianti. Venne l'ordine di smettere, ma trovammo il sistema per continuare ugualmente. Terminati i normali esercizi ginnici, una donna restava di guardia al cancello mentre noi tiravamo pugni e calci per tutta la lunghezza del corridoio. Una fredda domenica pomeriggio, giù in Greenwich Avenue, si svolse una grande manifestazione promossa dalla Coalizione per il Fondo Cauzioni e dal Comitato in New York, per la liberazione di Angela Davis. La folla era così entusiasta che ci sentimmo obbligate a organizzare una risposta. Una fredda domenica pomeriggio, giù in Greenwich Avenue, si svolse una grande manifestazione promossa dalla Coalizione per il Fondo Cauzioni e dal Comitato di New York per la liberazione di Angela Davis. La folla era così entusiasta che ci sentimmo obbligati a organizzare una risposta, dando in qualche modo anche noi una dimostrazione di forza. Ci riunimmo in corridoio per decidere quali slogan gridare e come farli risuonare all'unisono, malgrado il fatto che saremmo state suddivise per tutto il corridoio in celle diverse, gridando da finestre diverse. Non avrei mai creduto che tra le sorelle del carcere si potesse sviluppare un così forte senso di fierezza e di fiducia in se stesse. Fuori rimbombavano i cori. 4, 3, 2, 1, niente carcere per nessuno! Libertà per le sorelle, libertà per noi! E altri slogan politici popolari a quel tempo. Dopo un po' decidemmo di provare i nostri. Era molto più facile farci sentire attraverso le finestre dalla gente fuori che sentirci tra noi, separate come eravamo dalle spesse mura di cemento fra una cella e l'altra. Forse i nostri slogan non avevano una cadenza perfetta, ma riuscimmo a far giungere il nostro messaggio. Libertà per i fratelli di Soledad, Erika libera, Bobby libero, Jonathan Jackson vive! Anche se i cori di libertà per Angela mi riempivano di commozione, temevo che insistendo troppo su questo punto si sarebbero potute creare pericolose distinzioni fra me e il resto delle sorelle. Gridai a uno i nomi di tutte le sorelle del piano che partecipavano alla dimostrazione. Per una settimana rimasi senza voce. Dall'autobiografia di una rivoluzionaria come Angela Davis, che ha segnato il passo della storia del movimento femminista, ci è sembrato poi naturale spostare lo sguardo sulle esperienze più attuali della lotta di liberazione delle donne. Anche in questo caso la nostra scelta si ricollega a un episodio preciso, ossia l'arrivo in Italia di Dilara Diric, compagna curda e dottoranda in sociologia dell'Università di Cambridge. A Genova, nello specifico, lo scorso mercoledì 9 si è fermata a Palazzo Ducale per discutere sulla centralità della donna nella proposta politica del confederalismo democratico di Öcalan, mentre in serata ha partecipato al dibattito Capire il Rojava per liberarci tutti, facciamo rete ed auto-organizziamoci, presso l'LSOA Buridda. Il giorno seguente poi ha partecipato a un incontro ristretto presso la casa occupata di Vico di Pellicceria. Quello di giovedì 10 è stato un appuntamento improntato alla massima orizzontalità, inteso come un momento di confronto su aspirazioni, pratiche e desideri comuni, dove ogni diversità, ogni esperienza e ogni portato personale trovava posto e valorizzazione. Dilara quindi ci porta all'esperienza di rivoluzionarie che, con la lotta concreta e la riflessione teorica, stanno indagando e superando perfino i limiti del femminismo, senza rifiutarlo, tuttavia. E tutto questo è per costruire un nuovo paradigma in chiave post-vittimista, un paradigma che sappia davvero erodere le fondamenta del sistema patriarcale in tutte le sue accezioni economiche, politiche, sociali e culturali. Per capire in cosa consiste il percorso di trasformazione complessiva che stanno portando avanti le donne curde e per attingere saperi e strumenti utili alle compagne in tutto il mondo, abbiamo così scelto di proporvi un intervento che Dilara ha tenuto alla conferenza Sfidare la modernità capitalista 2, svoltosi nell'aprile 2015 ad Amburgo. In questo intervento si affrontano varie tematiche e in particolare si trae ispirazione dall'esperienza concreta appunto della lotta femminista in Rojava. Da questo intervento, che è stato tradotto e pubblicato sul blog da Kobane a noi.noblogs.org, abbiamo scelto alcuni stralci. In questo periodo cruciale, in cui le donne curde hanno contribuito a una riarticolazione della liberazione delle donne, rifiutando di seguire le premesse dell'ordine globale patriarcale, basato sullo Stato-Nazione, rompendo il tabù della militanza femminile, recuperando il concetto di legittima difesa, dissociandosi dal monopolio del potere da parte dello Stato e combattendo una forza brutale, non per conto di forze imperialiste, ma al fine di stabilire i propri termini di liberazione, non solo dalle organizzazioni statali o fasciste, ma anche la propria comunità, che cosa può imparare il movimento femminista dall'esperienza delle donne curde? Naturalmente non c'è un unico femminismo, ma diversi filoni, a volte molto diversi fra loro. Le specifiche caratteristiche dell'esperienza delle donne curde, che hanno creato la coscienza vissuta e diretta del fatto che le diverse forme di oppressione sono collegate tra loro, così come la critica del movimento di liberazione curdo, del colonialismo e dello Stato, forse suggeriscono ai movimenti femministi anarchici e postcoloniali di essere più vicini all'esperienza delle donne curde. Eppure, pur rivendicando il femminismo come parte importante della società storica e la sua eredità come patrimonio, le discussioni all'interno del movimento delle donne curde oggi mirano a indagare i limiti del femminismo e ad andare oltre lo stesso. Andare oltre significa sistematizzare un'alternativa al sistema dominante attraverso una critica sistemica e radicale. Significa la comunalizzazione della lotta, soprattutto politicizzando la base e trasformando, metaforicamente uccidendo il maschile, così come mettendo in discussione l'intero ordine mondiale. La visione del movimento di liberazione curdo sulla liberazione delle donne è di esplicita natura comunalista. Piuttosto che rifiutare gli uomini o decostruire i ruoli di genere all'infinito, essa tratta le condizioni alla base di concetti attuali di femminilità come fenomeni sociologici e mira a ridefinire tali concetti formulando un nuovo contratto sociale. Essa critica l'analisi mainstream da parte del femminismo del sessismo in termini solo di genere, così come il suo fallimento nel raggiungere un più ampio cambiamento sociale, limitando la lotta nel quadro dell'ordine persistente. Una delle principali tragedie del femminismo è il suo cadere nella trappola del liberalismo. Sotto la bandiera della liberazione, infatti, l'individualismo estremo e il consumismo vengono propagandati come emancipazione, ponendo ostacoli evidenti a qualsiasi azione collettiva. Il termine femminista intersezionalità naturalmente sottolinea che le forme di oppressione sono interconnesse e che il femminismo ha bisogno di adottare un approccio olistico per affrontarle. Ma molto spesso i movimenti femministi che si dedicano a questi dibattiti non riescono ad entrare in contatto con le vite reali di milioni di donne oppresse, generando l'ennesima discussione vuota sul radicalismo, inaccessibile ai più. Perché la lotta radicale o intersezionale non riesce a diffondersi? Il fatto che le donne curde abbiano ormai sconfitto una versione concentrata del sistema globale a Kobane dimostra che un'alternativa è davvero possibile e che questa alternativa deve essere incentrata sulla liberazione delle donne. Grazie alle sue particolari condizioni sociopolitiche ed economiche, il movimento delle donne curde è stato in grado di mobilitare un movimento di massa per arrivare a certe conclusioni, non solo attraverso dibattiti teorici, ma attraverso esperienze reali e pratiche vissute, che hanno creato una coscienza politica diretta e un attaccamento al trovare collettivamente soluzioni. La decostruzione del patriarcato e di altre forme di sottomissione, dominio e violenza sono quindi accompagnate dalla discussione sulla costruzione di alternative basate su valori liberazionisti e soluzioni ai problemi della libertà. Definendosi come scienza delle donne o come ricerca delle donne della conoscenza stessa, un'altra obiezione che la genealogia pone al femminismo è che spesso si occupa di analizzare le questioni sociali soltanto attraverso le lenti di genere. Mentre decostruire i ruoli di genere e il patriarcato ha contribuito alla nostra comprensione del sessismo e di altre forme di violenza e di oppressione, il femminismo tuttavia non è stato sempre capace di proporre con successo che tipo di alternativa possiamo creare. Se è possibile reimmaginare concetti di identità come quello di nazione, dissociandola da implicazioni etniche e mirando a formare un'unità basata su principi, in altre parole, una unità di pensiero, costituito da soggetti politici piuttosto che oggetti che servono lo Stato, possiamo anche creare una nuova identità delle donne basata sull'autonomia e la libertà di formare un nuovo senso di comunità, senza gerarchia e dominio. La genealogia non è considerata come un fornitore di risposte, ma come un metodo per esplorare queste domande. E tuttavia, pur criticando la fissazione del femminismo sul genere, il movimento delle donne curde riconosce allo stesso tempo l'urgente necessità di prestare attenzione alle specifiche forme di oppressione. L'elemento centrale della struttura organizzativa di questo movimento è proprio l'auto-organizzazione autonoma dei gruppi e delle comunità, a fine di rafforzare la democrazia radicale. Il movimento delle donne è autonomamente organizzato in tutti gli aspetti della vita, dalla difesa dall'economia all'educazione e alla salute. È interessante notare che anche se la liberazione delle donne è sempre stata parte dell'ideologia del PKK, l'organizzazione autonoma delle donne è emersa simultaneamente allo spostamento generale dello scopo politico, dallo Stato-nazione in direzione della mobilitazione di base democratica locale. Non appena è stato identificato il rapporto tra le diverse forme di oppressione, non appena sono state smascherate le assunzioni e i meccanismi oppressivi del sistema statalista, sono state cercate soluzioni alternative, con la conseguente articolazione della liberazione delle donne come principio senza compromessi. Piuttosto che aspirare alla ricerca di giustizia all'interno di concetti concessi dallo Stato, come i diritti legali, che è una delle preoccupazioni del femminismo mainstream, il movimento delle donne curde è giunto alla conclusione che la strada verso la liberazione richiede una critica fondamentale del sistema. Invece di essere un onere per le donne, la liberazione delle donne diventa una questione di responsabilità di tutta la società, perché è la misura per l'etica della società e della libertà. Per una lotta per la libertà significativa, la liberazione delle donne deve essere non solo un obiettivo, ma anche un metodo attivo nel processo di liberazione. Difatti, aspettarsi qualsiasi cambiamento sociale significativo dei meccanismi stessi che perpetuano la cultura dello stupro e la violenza contro le donne, come lo Stato, significherebbe ricorrere al liberalismo con le sue pretese femministe e democratiche. Quelli che chiedevano se il movimento delle donne curde è in realtà femminista o no, dovrebbero comprendere la radicalità che vibra tra le due dita alzate nel segno di vittoria dalle donne anziane in abiti colorati con i tatuaggi tradizionali, in Rojava oggi. Le donne che lottano a Kobane sono diventate una fonte di ispirazione per le donne di tutto il mondo, perché si sono organizzate socialmente e militarmente, analizzando le similitudini tra la violenza di Stato liberale, l'atrocità dell'ISIS e i delitti d'onore nelle comunità. In questo senso, se vogliamo sfidare l'ordine sistemico e il suo patriarcato globale, statismo, nazionalismo, militarismo, neocolonialismo e capitalismo, dobbiamo chiedere quali tipi di femminismo questo sistema è in grado di accettare e quali non può. Un femminismo imperialista può giustificare guerre in Medio Oriente per salvare le donne dalla barbarie, mentre le stesse forze che alimentano questa cosiddetta barbarie con le loro politiche estere o il mercato delle armi etichettano le donne che si difendono come terroriste. Il sistema dominante considera uno dei più attivi ed emancipatori movimenti delle donne come una minaccia inerente al suo status quo. Così, diventa chiaro che il movimento di liberazione curdo non rappresenta una minaccia per l'ordine internazionale a causa di qualsiasi possibilità di un nuovo Stato, ma a causa della sua alternativa radicale adesso, un'alternativa di vita esplicitamente incentrata sull'abolizione di 5.000 anni di sistematica schiavitù mentale e fisica. Per oggi è tutto. Nella prossima puntata continueremo a leggere alcuni brani tratti dall'autobiografia di Angela Davis e scopriremo in che cosa consiste l'autodifesa femminista, intervistando una delle compagne che vi partecipano. No.